Questa sera a Bologna una doppia presentazione, ritorna lo Stato Sociale, questa volta in versione cinematografica, perché sia l'Arena Puccini, ma è già sold out, ma anche alle 18.30 al Cinema Medica Palace verrà proiettato La piazza della mia città, Bologna e lo Stato Sociale, è un film di Paolo Santamaria. Per parlarne siamo al telefono con Albi, che saluto, bella Albi. Bella Regaz, ciao a tutta Radio Città Fujiko, che bello fare le interviste su questa radio che è la mia radio preferita da sempre. Oltre che giochiamo in casa, dai. Infatti no, l'ho detto anche con Radio Bruno stamattina, però facciamo finta di niente. No, ma va bene. Senti, io mi ero preparato una prima domanda con proprio parole esatte, che era questa: Regaz, ma vi siete dati al cinema? Sì, siete al cinema, come cantano allo stadio. No, in realtà noi abbiamo fatto ben poco di cinematografico in questa operazione, perché abbiamo fatto solo il concerto, abbiamo fatto un bel concerto con tante persone in Piazza Maggiore nel 2018, e il regista doveva riprendere il concerto e fare in modo che diventasse un documentario il concerto. Solo che si è fatto un po' prendere la mano, perché ci succede spesso questa cosa, e ha allargato l'orizzonte del film a un discorso più ampio su Bologna e sulla Piazza Maggiore di Bologna. Quindi hanno intervistato, noi non abbiamo fatto niente, veramente. Dopo il concerto ci siamo fermati, ha fatto tutto il regista Paolo Santamaria. Voi al massimo tante... delle birrette. Sì, noi andavamo lì, ogni tanto bevevamo delle birrette, facevamo balotta con i vari personaggi che sono stati intervistati, però poi non siamo intervenuti come autori, ok, abbiamo solo fatto quello che sappiamo fare, non bene, ma che almeno sappiamo fare. E poi nel corso degli anni, perché alla fine si parla di 2 anni fa, si sono aggiunte varie voci e si è completata l'opera di questo documentario che parla proprio del significato che ha la piazza per Bologna. Ecco, tu dicevi appunto, sono stati interpellati altre persone come Gianni Morandi, Enrico Brizzi, Luca Carboni e Matilda De Angelis, che compaiono nel documentario. Sì, ci sono anche Luca Bottura e Farinelli della Cineteca e altri che poi meglio non iniziare a elencare, che sennò poi si offendono che non l'abbiamo fatto, ma ormai l'abbiamo già fatto e quindi si offenderanno, pazienza. Sì, è stato non scontato come risposta, perché non pensavamo che aderissero tutti alla richiesta di esprimere appunto opinioni su di noi, ma più che altro su Bologna, perché come ripeterò e lo ripeterò all'infinito, il film è molto più incentrato sulla città e sulla piazza che su di noi. Noi siamo solo un pretesto. E non era scontato che così tante personalità di spicco e rilevanti accettassero di partecipare a questo progetto, quindi siamo molto contenti. La piazza come insomma protagonista di questo lavoro, la piazza che in realtà negli ultimi tempi effettivamente è al centro di tante cose, no? Da un lato il fatto di non poter andare in piazza proprio negli ultimi mesi durante il lockdown, ma c'è stata anche la piazza delle sardine e tante altre cose. Cosa significa per lo Stato Sociale la piazza? Ma Piazza Maggiore e la piazza in generale per noi è sempre stato fin dall'inizio il punto di ritrovo, nel senso, ad esempio, io e Lodo ci siamo conosciuti in piazza perché le balotte varie si ritrovavano lì e per caso poi ci siamo presentati una sera perché amici in comune e altre cose, ma succedeva proprio lì, succedeva che ti davi l'appuntamento sotto i caduti, succedeva che alla notte arrivava un pallone e iniziavi a giocare alla notte e poi ti facevi cacciare dalla polizia, succedeva che ti mettevi a suonare i bonghi, le chitarre in piazza e ti facevi cacciare dalla polizia, però comunque la piazza era viva, era il momento in cui ci si incontrava, è il posto dove ci si incontra e dove si creano le cose. Senza il punto d'incontro non esisterebbe la vita, banalmente, no? E quindi il luogo fisico assume il ruolo di generatore di cultura, di socialità, di tutte quelle cose che ci stanno tanto a cuore. Però visto che questa intervista sta andando avanti anche in modo così molto tranquillo, voglio aggiungere un po' di pepe, perché mi ricordo che nel 2018, quando e avete suonato in Piazza Maggiore, c'era il sovrintendente che voleva negarvi la piazza perché ha detto che non vi aveva mai sentito. Ecco, poi vi ha sentiti? Sì, poi ci ha sentito, tra l'altro non era manco il sovrintendente, era tipo il vice sovrintendente, perché il sovrintendente aveva di meglio da fare, e invece il vice sovrintendente, che manco noi sapevamo chi fosse, se può contare qualcosa, mi ha detto che non ci conosceva. Vabbè, ma è una cosa, è stata un po' una buttata secondo me, perché voleva far parlare di sé. Alla fine abbiamo risposto con i fatti. È vero però che nel 2018, se non fosse stato per Sanremo, noi per larga parte della popolazione, non solo di Bologna ma in generale nazionale, oserei dire, non eravamo nessuno, non eravamo conosciuti. Poi un po' con Sanremo siamo arrivati, diciamo, nelle case di tutti, no? Quindi faceva un po' specie che un vice sovrintendente alle attività culturali non sapesse chi fossimo, però è andata così, pazienza. No, va bene. E adesso infatti siamo arrivati al sold out, appunto. Senti, tu prima hai citato Lodo, hai detto che l'hai conosciuto in piazza. Lodo è impegnato, io per questo come prima domanda vi ho chiesto se vi siete dati al cinema, perché è andato a Venezia con un altro film. Sì, no, stiamo lavorando anche nel cinema, soprattutto Lodo, che come sai ha una estrazione da attore, nel senso lui sì. È diplomato all'Accademia d'Arte Drammatica, fin da subito è sempre stato un attore, lui ha sempre voluto fare più che altro teatro, però diciamo che col teatro in questo paese non è che si campa agilmente, bisogna fare un po' di cinema, un po' di televisione, e quindi come l'ha dimostrato ha condotto il Primo Maggio, ha fatto X Factor in TV e ha partecipato come attore al suo esordio in questo film che è stato presentato a Venezia, che si intitola Est. Esatto. Ed è una delle tante diramazioni dello stato sociale nel mondo della cultura, perché noi facciamo così, ogni tanto ci ritroviamo, ogni tanto facciamo la diaspora e poi ci ritroviamo. Romanzi, fumetti, insomma ne avete fatte tante. Sì, è nella nostra natura, non vogliamo limitarci ad una cosa semplice, perché poi dopo un po' ci annoiamo, quindi cerchiamo di variare il più possibile. Senti, l'ultima cosa, all'Arena Puccini cosa farete? All'Arena Puccini faremo una gran baracca, come al solito, nel senso, no, presenteremo il film con una mezz'oretta, 40 minuti di showcase, dove suoneremo qualche pezzo in acustico e faremo anche un po' di storytelling, bisogna usare le parole inglesi, esatto, per fare bella figura. Faremo delle chiacchiere, insomma, ecco, per tradurla. Dovrebbero esserci degli ospiti, ma non so, non ne sono sicuro. Cioè, manca poco, ma ancora ci mancano anche delle conferme, però essendo una sorpresa ed essendo comunque l'evento sold out non cambia niente, possiamo dire che chi verrà si troverà delle sorprese e chi non verrà ci dispiace, perché abbiamo fatto sold out senza dirlo a nessuno, quindi sono rimasti fuori. Ma per chi è rimasto fuori invece c'è posto per vedere il film al Cinema Medica Palace alle 6:30, che ci sarà la proiezione, e passeremo anche a salutare, non credo che suoneremo perché non c'è la tecnologia per farlo, ma passeremo a salutare, a stringere le mani ai presenti, che non si può fare, quindi saluteremo da lontano i presenti. Perfetto, allora io ti ringrazio, ricordo i due appuntamenti per questa sera, appunto per chi ha già il biglietto all'Arena Puccini, altrimenti comunque c'è la possibilità del Medica Palace, sul sito di Radio Città Fucico trovate il link per i biglietti. Grazie mille Albi e salutami la banda. Grazie a voi tutti, vi voglio tanto bene. Ciao.